dico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno. Si sente? Sì. Allora, benvenuti a tutti, sia chi è in presenza, chi è online. Iniziamo questa sera con la presentazione del libro di Graziano Giusti, Disfattismo. Abbiamo cominciato, direi non casualmente, anche come altre volte, con questa canzone di Iannacci del 75, Il Monumento, che ha in sé un po' tutti gli elementi di quello che è il disfattismo e quello che è una posizione di classe contro la guerra. Il nucleo, il nemico, non è oltre la frontiera. Non solo, l'Istituto di questa sera è un filo conduttore su una cosa per noi centrale, che è il disfattismo, e anche con altre presentazioni che abbiamo fatto. Dicembre 2024 abbiamo presentato il libro di Francesco Misiano, Il disertore, questa sorta di autobiografia di un disertore, disfattista, comunista rivoluzionario prima e durante la Prima Guerra Mondiale. Qualche anno prima, nel 2019, abbiamo presentato il libro di Ugo De Grandis, Guerra alla guerra, il racconto del grosso processo di Pradamano del 1917, quando una cinquantina di soldati socialisti accusati di propaganda, agitazione, disfattismo contro la guerra, vengono processati a Pradamano su mandato di Cadorna. Cadorna è Luigi Cadorna, quello della piazza qui di Milano, che nella sua targa meriterebbe sotto l'epiteto di assassino per quello che ha fatto ai soldati italiani. Il libro di Graziano, questi libri partono da un passato che è quello della Prima Guerra Mondiale e arrivano all'oggi, al problema politico che abbiamo di fronte, che è quello della possibilità di un nuovo conflitto mondiale intercapitalista che si sta approssimando, di cui sicuramente noi non conosciamo la data oggi, ma abbiamo tutti quanti i segnali che vanno dai piani di riarmo, dal sostegno all'industria bellica, dall'aumento degli effettivi e dei mezzi militari, dalla riqualificazione tecnica e strategica alla luce delle guerre in corso. Guerra in Ucraina, nuovo tipo di guerra con i droni, con le trincee come una volta. Gaza, intervento sulla popolazione che si rivolta, che fa parte della guerra attuale. La messa in discussione delle sospensioni dei servizi militari obbligatori, l'indottrinamento bellico nelle scuole, che ormai qui in Italia parte dalle scuole elementari, e la propaganda incentrata sull'aggressore e l'aggredito, e così via, lo sappiamo, lo stiamo vivendo, fanno parte della quotidianità che noi stiamo subendo. E c'è questo problema di che risposta dare. Il disfattismo rivoluzionario di cui parla Graziano una volta era l'elemento di base della pratica e della politica del proletariato a partire dalla prima guerra mondiale, era una cosa che ha coinvolto proletari prima della guerra, durante la guerra, in Europa, ha attraversato anche gli Stati Uniti, perché i Wobblies, le IWW, facevano una propaganda aperta contro la partecipazione alla guerra, e fino al secondo, al primo dopoguerra, questo era l'atteggiamento che si doveva avere nonostante il tradimento fatto, cosiddetto tradimento alla Seconda Internazionale. Negli anni successivi, tra avvento del fascismo, avvento del stalinismo e così via, non la sto a fare molto lunga su questo, è stato messo una pietra sopra al disfattismo, è stato cancellato dall'esperienza storica, è stata impostata una posizione che vedeva, quando andava bene, prima la lotta al fascismo, poi forse ci sarà stato un secondo domani in cui si poteva parlare di lotta di classe, di rivoluzione, e il proletariato è stato conglobato, portato, sottoposto alla seconda guerra mondiale, e non c'è stata quell'estensione di fenomeni disfattisti che abbiamo visto nel corso della prima guerra mondiale. Faccio un esempio per ricordare cosa voleva dire, perché oggi non esiste a livello di massa questa percezione nell'immaginario sociale. Ci ricordiamo che nel 1943, quando Togliatti arriva dalla Russia in Italia, dà una posizione precisa che si chiama svolta di Salerno. La resistenza deve portare a un nuovo regime democratico, liberale, borghese, non si deve parlare di rivoluzione sociale in alcun modo. Il legame, connessione, lotta alla guerra, disfattismo, rivoluzione sociale, che è quello fondamentale per noi, viene così distrutto definitivamente, non farà più parte dell'esperienza proletaria, e oggi siamo arretrati rispetto a questa cosa, e quindi occorre parlarne, ma siamo arretrati perché si è voluto cancellarlo. Vi faccio un esempio giusto per rimanere nel mondo della cultura. Nel 1939 uno sceneggiatore e regista americano, Dalton Trumbo, scrisse un libro e Johnny prese il fucile. Una denuncia pacifista contro la guerra durissima, fortissima, per chi poi vide il film. Il film lui lo voleva fare già nel 1939, gli venne permesso di dirigerlo e farlo nel 1971, quando sull'onda di quella che era stata la mobilitazione contro la guerra in Vietnam negli Stati Uniti, si rende possibile parlare di un'opposizione alla guerra. O l'altra cosa che possiamo ricordarci è solo del 2005, un altro film che è circolato anche qua, Joe Noël, una verità dimenticata dalla storia, che è la famosa tregua di Natale del 14 tra i soldati inglesi, francesi e tedeschi sui campi di battaglia del Belgio. Se ne può fare un film nel 2005, il libro di cui ne parla, quello di Hughes, è del 2003. D'altra parte, se noi andiamo a vedere la ricostruzione storica di questi episodi, quello che è avvenuto è stata fatta principalmente da studiosi anarchici o comunisti internazionalisti, salvo qualche eccezione come Del Bocca. E il libro di Graziano riparte da qua, partendo da quegli esempi, da quella situazione, da quella lotta che si è sviluppata, si riconnette all'oggi, all'Ucraina, si riconnette al momento attuale, in cui noi ci ritroviamo, e qui vado a chiudere la presentazione, in una situazione in cui risaltano fuori le cose di quel periodo, con altre dimensioni, altri significati, ma abbiamo gli anarchici e socialisti dei paesi dell'est che parlano apertamente di difesa dell'Ucraina, che usando gli stessi argomenti che vanno usati allora, dicono che bisogna difendersi dall'imperialismo russo, che è quello più reazionario, una volta era quello austriaco o viceversa, e sono le stesse argomentazioni di allora e vogliono portare il proletariato in guerra. Contemporaneamente qui abbiamo i residuati dello stalinismo che si inventano che i russi fanno la guerra alla politica reazionaria della NATO e bisogna schierarsi con il capitalismo della NATO. Il disfattismo non ci deve essere, non ci deve essere una posizione autonoma del proletariato, che invece in Russia, ma soprattutto in Ucraina, in qualche modo ha cercato di manifestare la sua opposizione, il suo rifiuto alla guerra, almeno con le diserzioni, che sono arrivate ormai ben oltre le 160.000 in Ucraina, e ci dà l'idea della necessità e dell'importanza di ribadire il concetto e la politica del disfattismo, che la lotta di classe non si ferma in guerra, che non dobbiamo subordinarci alla borghesia, ma dobbiamo schierarci in ogni modo contro la partecipazione al conflitto. E do la parola a Graziano. Buonasera, grazie per essere venuti qui. Cercherò brevemente, per quanto mi è possibile, di illustrarvi quello che ho cercato di fare con questo libro, dove l'esperienza a cui si richiamava nella presentazione il compagno, quella del disfattismo, ha avuto più di un secolo fa la sua massima espressione. Ha avuto la sua massima espressione in un momento in cui emerge un fenomeno fino allora mai visto, e cioè una guerra mondiale imperialista dovuta non direttamente a cause economiche, anche se sullo sfondo vi sono sempre le contraddizioni del capitalismo, ma è un'epoca chiamata della Belle Époque, dove c'è il mito dello sviluppo economico, della stabilità politica, delle nuove tecnologie, dentro però degli squilibri crescenti tra potenze, dentro una sete sempre più forte di colonie, di materie prime, dentro un predominio del capitalismo finanziario, il ruolo dei monopoli, descritti molto bene dal famoso opuscolo di Lenin, l'imperialismo fase suprema del capitalismo, che vedono comunque in sostanza in Europa un conflitto insanabile tra una Gran Bretagna in declino e una Germania in ascesa. Si sono formate da tempo delle alleanze che spingono verso la guerra. L'Italia è già un paese imperialista. Si inaugura l'epoca dell'imperialismo e delle guerre imperialiste, dove sicuramente le questioni nazionali non scompaiono, ma che appunto sono già declinate dentro questo meccanismo di lotta senza esclusione di colpi a livello internazionale. I caratteri che assume questa guerra imperialista sono quelli di una guerra totale, che investe tutto l'apparato dello Stato e tutta la società civile. Si apre il cosiddetto fronte interno, che è fatto di lavaggio dei cervelli, di propaganda massiccia, di menzogna pianificata, che chiamano in causa tutti gli schieramenti politici. Ogni schieramento politico è chiamato a schierarsi di fronte a questa guerra che scoppia. Per certi versi anche inaspettatamente, ma inaspettatamente, se andiamo a vedere il casus belli, l'attentato, il famoso attentato dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, no, a Sarajevo, ma non inaspettatamente per i motivi che vi ho elencato prima. E questa guerra viene subito presentata su entrambi i fronti, quello dell'intesa e quello degli imperi centrali, dell'alleanza, come una guerra di civiltà, una guerra breve, una guerra che servirà ad eliminare le guerre. Tutte cose che, come ben sappiamo, sono i ritornelli che continuamente, tra l'altro, ritornano via via, no? Quando ci si trova in situazioni simili. E questa propaganda martellante coinvolge non solo larghi strati della piccola borghesia, ma anche quote di un proletariato frustrato e avvilito dal tradimento della Seconda Internazionale, che vota i crediti di guerra in ciascun paese, eccetto Russia, Serbia e Italia, dove però il Partito Socialista Italiano, lo vedremo, non prende una posizione appunto di disfattismo rivoluzionario, e cioè il nemico è in casa nostra e quindi bisogna lavorare affinché salti il fronte interno e si creino le basi per una rivoluzione. No, il Partito Socialista Italiano sostiene né aderire né sabotare, che poi nel corso della guerra, soprattutto dopo il rovescio di Caporetto, diventerà semplicemente aderire alla guerra del proprio imperialismo. Una Seconda Internazionale internazionalista solo a parole, ma in realtà eurocentrica, riformista, gradualista, compromessa col potere borghese. Nel libro vengono affrontate brevemente delle questioni che ritengo importanti ancora oggi, relative al fatto se è possibile evitare una guerra dal punto di vista del proletariato, con la mobilitazione proletaria. Viene affrontata la questione se la borghesia spinge verso la guerra per un problema per una funzione antiproletaria, per schiacciare il proletariato, semplicemente per quello. E non sono dei quiz, stiamo ragionando su delle esperienze storiche che appunto ci portano a dire, molto sinteticamente, nel libro troverete un'esposizione un po' più argomentata, ci portano a dire che è molto difficile che il proletariato abbia la forza, la possibilità, il tempismo necessario, l'organizzazione per impedire una guerra. Molto più probabile che la rivoluzione possa sorgere da una guerra imperialista già in corso, da una guerra della borghesia già in corso. Abbiamo l'esperienza della Comune di Parigi, abbiamo l'esperienza grandiosa dell'ottobre bolscevico, che nascono dentro guerre borghesi già in corso, non sono state in grado di impedire la guerra. Anche se non possiamo escludere ovviamente che possano accadere fenomeni di questo genere, non è che abbiamo la palla, no, del futuro in mano, però dobbiamo ragionare sull'esperienza storica. E quindi tutto questo ci porta a puntare l'attenzione sul dover fare un lavoro importante di penetrazione dentro la classe, di organizzazione dentro la classe, prima che la guerra scoppi, perché altrimenti è difficile poi rincorrere la situazione, che può facilmente scappare di mano quando ormai la guerra è in atto e la borghesia ha tutti gli strumenti per schiacciare le resistenze che vengono nel campo della classe lavoratrice. Per quanto riguarda la guerra prodotta per schiacciare il proletariato, questo elemento sicuramente esiste c'è sempre in ogni guerra borghese l'aspetto di schiacciare la propria classe, metterla in condizione di non nuocere, impedire che possa andare avanti magari in una situazione come quella a cui mi sto richiamando, dove negli anni precedenti c'erano pur state delle conquiste da parte del proletariato tedesco, ma non solo, no, a livello internazionale. Ma direi che non è questo l'aspetto principale, in quanto il motivo di fondo per cui le borghesie passano dalla diplomazia alle armi consiste, secondo me, sostanzialmente nel fatto che, come accennavo prima parlando del rapporto tra Gran Bretagna e Germania, i loro rapporti, quando non sono più temperabili con la diplomazia, sfociano nella lotta aperta, nella lotta militare. Una lotta militare che, tra l'altro, altro aspetto che ci richiama all'attualità, è stata preparata negli anni precedenti al 1914 con un forte riarmo, con una corsa forsennata al riarmo e con un prevalere degli stati maggiori sui governi stessi dal punto di vista di imporre le strategie militari. Una per tutti, quella che mi viene in mente di richiamarvi, è quella dello Stato Maggiore tedesco, dove quando il Kaiser Guglielmo II, per evitare che la Gran Bretagna entri in guerra, dice: ma non si può attaccare la Francia senza passare dal Belgio, von Moltke, che è il capo di Stato Maggiore, dice: troppo tardi, abbiamo già in moto la macchina che ci permette in pochissimo tempo di arrivare a Parigi, e questa macchina è già in moto. Per dire il peso che a un certo punto anche gli stati maggiori collusi con la grande industria, con gli affari connessi ad essa, poi possono portare e spingere la situazione. Detto questo, nel 14, come accennavo prima, siamo di fronte a una mobilitazione enorme, militare e civile, una mobilitazione che investe tra l'altro le colonie sottomesse a queste grandi potenze. Il PSI, come dicevo, è in mezzo al guado. Il gruppo dirigente riformista o anche massimalista, per quello che può esprimere, è un gruppo dirigente che è imbrigliato in questa posizione né aderire né sabotare. Esiste però, e nel libro viene richiamato, riportando anche un estratto del Guzzanti uno studio sulla Federazione Giovanile Italiana Socialista, esiste però questa Federazione Italiana Giovanile Socialista che sta compiendo da anni, insieme al movimento anarchico, un egregio lavoro antimilitarista. Lo richiamo perché è importante, anche per l'oggi, riprendere un lavoro di questo genere. Lo richiamo perché dobbiamo dircelo: dopo quell'esperienza, per tutta una serie di motivi, a sinistra anche nel campo rivoluzionario, questo aspetto è stato, direi, abbandonato o messo in secondo ordine, quando invece, secondo me, è un aspetto fondante di un internazionalismo attivo e operante, cioè l'antimilitarismo. È un lavoro importante quello che questa federazione, insieme al movimento anarchico, conducono, perché parte da lontano e quindi arriva all'appuntamento del 14 con una penetrazione dentro la classe, dentro i giovani e dentro la classe, che è importante. Una penetrazione non puramente propagandistica, cioè la diffusione dei principi internazionalisti e tutti a casa, o una diffusione libresca dei principi internazionalisti, ma una pratica attiva dell'internazionalismo, fatta di una rete di solidarietà, dove si vanno a organizzare i militari nelle caserme, non si lasciano soli. Come ben sapete, nel Regio Esercito il militare di Aosta andava a finire in Sicilia e viceversa, no? A fare servizio militare. Ebbene, chi era tesserato alla Federazione Giovanile Socialista o anche un simpatizzante che andava sotto le armi, veniva contattato, veniva organizzato. Qualora qualcuno disertasse, fosse renitente, incorresse in denunce, in condanne, lui e la sua famiglia non venivano lasciati soli a se stessi, ma venivano assistiti da questa rete di solidarietà che avevano creato questi giovani socialisti insieme al movimento anarchico. E dunque un internazionalismo che può esprimere il disfattismo in questi anni, e lo vedremo brevemente, perché è stato coltivato, perché è stato praticato, non puramente declamato. Ed è un disfattismo che viene dalla fine dell'Ottocento, dalle prime campagne in Abissinia, quando Andrea Costa proclamerà né un soldo né un uomo per le guerre d'Africa. È un antimilitarismo che viene dalla guerra di Libia, 1911-12, dove Masetti, l'anarchico, no, che a Bologna spara al colonnello, viene condannato e diventa un simbolo. Un simbolo. Viva Masetti, si legge scritto sui muri, no? Che sarà condannato perché spara a un colonnello che li sta irregimentando per mandare le truppe in Africa, dove ci saranno dei massacri spaventosi dell'imperialismo italiano sulla cosiddetta quarta sponda. È un antimilitarismo, appunto, che poi arriva all'appuntamento della prima guerra mondiale ben rodato. Anche se all'inizio non si esprime a pieno per quello che può. Perché? Perché, come dicevo prima, c'è il mito della guerra breve, no, delle spallate sull'Isonzo, del famigerato generale Luigi Cadorna, il quale introduce nel codice militare il reato, la pena della decimazione qualora i rei che si insubordinano, che disubbidiscono, no, che fanno ostruzionismo non vengono individuati, e allora di fronte a reati gravi c'è la conta 1, 2, 3, 10 fucilato, 1, 2, 3, 10 fucilato. Questo è il clima che via via che la guerra invece si prolunga col suo mare di sangue, di sofferenze che vengono riprese nel libro citando alcuni romanzi che mi sembrano che tocchino non solo il cervello ma anche il cuore, no, dei giovani, direi, soprattutto dei giovani, ecco, diventano esecuzioni vere e proprie, diventa una repressione durissima, neanche censita, perché molti militari vengono, che si rifiutano di combattere o che fuggono di fronte al nemico, vengono rastrellati e passati per le armi sul posto dall'emerita arma dei carabinieri. E qui, come vi ho citato, mi sono sentito di riprendere alcuni romanzi molto conosciuti, penso, vedo anche la platea che è qui presente, penso che non devo andare a spiegarvi, non so, Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu o Nulla di nuovo, Le fronte occidentale di Remarque, per non dire magari il meno conosciuto, Viva Caporetto dell'eccentrico Malaparte, ecco, romanzi di questo genere, dove chi racconta sono dei giovanissimi interventisti che sono partiti volontari per questa guerra e che di fronte ai massacri, alla ferocia, al cinismo ributtante che vedono di fronte a loro, ecco, di fronte a questo, raccontano crudamente quello che succede, il clima che si respira, raccontano crudamente anche episodi che penso appunto debbano toccare non solo la mente ma il cuore, perché l'opposizione alla guerra imperialista è un'opposizione che deve toccare anche i sentimenti, deve scatenare anche ripulsa, non è un problema solo razionale, di analisi, è un problema che deve investire la passione, soprattutto dei giovani che si vedono costruire, definire di fronte a loro un mondo dove c'è una forsennata corsa al riarmo, molto più di quella di cui stiamo parlando, molto più di quella di 100 e più anni fa. E quindi il tedesco Baumer, che pugnala a morte il tipografo francese Duval e che è costretto a assistere alla sua fine in una trincea perché non può scappare, essendo ferito, il ribelle tenente italiano della Sassari, Otto Lenghi, che discutendo con altri ufficiali dopo un ammutinamento dice a Roma, dobbiamo andare a Roma, e gli dicono ma come, e gli austriaci avanzano, chi se ne frega, dobbiamo andare a Roma, dobbiamo fargli vedere come si fa, dobbiamo fargli vedere che qualcuno inizia la rivoluzione, cosa che purtroppo, nonostante questo disfattismo che nel 1917 raggiunge la sua punta in Italia con la disfatta di Caporetto, ecco, non avviene quello che avviene sul fronte russo-tedesco, dove a Mosca o quello che volete, comunque si torna indietro, ma si torna indietro per fare la rivoluzione. Non si buttano le armi. Quindi non è una soluzione pacifica e pacifista quella dell'ottobre, è una soluzione rivoluzionaria che esprime, quando riporto dei pezzi del famosissimo libro 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, che esprime il guardia marina Krylenko, che diventerà comandante poi dell'Armata Rossa, passerà poi allo stalinismo, questa è un'altra storia. Comunque questo guardia marina dove dirà che non si piantano le baionette per terra, cosa che invece in Italia, non dico che si piantano le baionette per terra, però dopo la rotta di Caporetto, sapete tutti la disfatta, no? Dove gli austro-tedeschi sfondano il fronte, dilagano nel Veneto, vi sono circa 500.000 di sbandati, si vuole tornare a casa. Si vuole farla finita, giustamente, si vuole farla finita con la guerra, ma non ci sono direttive, non ci sono organismi in grado di dire cosa fare una volta che si fa marcia indietro, una volta che ci si toglie dal fronte di guerra. Non ci sono. E allora, in poco tempo, la borghesia italiana assorbe il colpo, si riorganizza, riparte all'attacco, sbussa gli animi, cambia il comandante in capo, arriva il generalissimo della vittoria Armando Diaz, il quale continuerà tra l'altro l'esecuzione di cui vi parlavo prima. Non è vero che poi c'è tutto questo buonismo nell'esercito, ovviamente cerca di smussare un po' qualche punta, ma le esecuzioni dei renitenti, dei reprobi continuano, dei disfattisti continuano. Comunque la borghesia si riprende e poi ci sarà la controffensiva, che anche qui molto strombazzata dal racconto nazionale e nazionalista del 4 novembre, però nei fatti poi si riprenderà, nonostante prima di Caporetto ci fosse stata l'insurrezione operaia a Torino nell'agosto, Caporetto nell'ottobre-novembre, nell'agosto c'è stata l'insurrezione operaia a Torino con le barricate represse dall'esercito, e prima ancora a Milano vi siano stati scioperi importantissimi di operaie e giovanissimi operai nelle industrie per pane, pace, pane e pace, che è lo slogan che viene anche urlato dappertutto, ma che non ha purtroppo una rispondenza. Però il fenomeno del disfattismo significativo comunque rimane e avrà, nulla va perduto di fronte a esperienze importanti, nulla va perduto, e avrà un riscontro nell'immediato dopoguerra, nel famoso biennio rosso. Il famoso biennio rosso sarebbe anche incomprensibile se non tenessimo conto di questa esperienza disfattista sul fronte della guerra appena trascorsa. Quindi, per dire che la rivoluzione ha le sue tempistiche. Ciò che non viene fatto al momento opportuno non si ripresenta, anzi può tramutarsi nel suo contrario. Questo è l'insegnamento che ci può venire da un'esperienza di questo genere, che può essere paragonabile come disastro nazionale all'8 settembre del 1943. Del tutti a casa, che avverrà nella Seconda Guerra Mondiale. Però non avrà, come non lo avrà nel 1943, dove anche lì non ci saranno indicazioni, organizzazioni di questo genere, radicate nel proletariato in grado di dare la svolta rivoluzionaria, non ci sarà un'uscita in avanti dalla guerra imperialista. Passati più di 100 anni, cosa possiamo dire? Beh, che alcuni tratti li possiamo riscontrare anche oggi, e queste questioni sono affrontate un po' più diffusamente sia nel prologo del libro che nella postfazione. Alcuni tratti li possiamo verificare anche oggi. Uno è il riarmo, un altro è la propaganda di guerra, un altro sono le ideologie di guerra che stanno marciando a tutto spiano. I tentativi di militarizzare la società, la scuola. Pensate che leggevo sul giornale l'altro ieri la Germania sta facendo dei piani di guerra riarmisti e sta reintroducendo la leva obbligatoria, perché una delle differenze invece che fino a ieri, no, caratterizzava la nostra epoca era quella degli eserciti professionali. Allora ci trovavamo di fronte dei militari di leva che potevano anche essere, diciamo, più facilmente convinti da una propaganda disfattista. Di fronte a dei professionisti la cosa è un po' più complicata, non impossibile, ma sicuramente più complicata. Bene, la Germania sta andando oltre e sta indicando agli altri imperialismi europei la strada da seguire. Si parla nel governo tedesco di una pianificazione che punti a integrare esercito, industria e logistica civile in un unico sistema di difesa. Il capo della Rheinmetall, Yamin Papenger, prevede che il settore possa impiegare fino a 500.000 di persone nei prossimi anni. Quindi guerra e affari, patria e affari, come dichiara il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Dobbiamo pensare, dice, la sicurezza come un compito collettivo. L'Europa deve essere pronta a difendersi e la Germania deve fare la sua parte. Quindi, non solo, dice, è un dovere patriottico, sempre Pistorius che parla, è una nuova fase del rapporto tra industria e Stato. Quindi diventa anche questo, come allora, un'occasione per rilanciare un'economia capitalista occidentale che è nelle secche, che cresce con gli 0,1, che cresce. Quindi questo è un fatto. È un fatto importante che deve, come dire, farci capire che ormai questo problema della guerra imperialista non è un futuro futuribile, ma è una realtà che abbiamo di fronte ai nostri occhi. Una realtà che tra l'altro vede le classi dominanti poter disporre di meccanismi di convincimento, di meccanismi di propaganda enormi rispetto a quelli pur non disprezzabili di una volta. Quindi una propaganda mass mediatica tambureggiante, la possibilità di utilizzare armi enormemente più distruttive, macchine che per certi versi fanno la guerra al posto degli uomini pur distruggendo molti, molti uomini. Pensate che nella guerra di Ucraina si parla ormai, le cifre esatte non le si hanno, ma si parla ormai di centinaia di migliaia di morti. Per non parlare di Gaza, no, dove l'uso di queste macchine, droni e compagnia bella, permette di uccidere a distanza un numero di vite umane molto più forte di quanto poteva essere più di 100 anni fa. Quindi questi fatti ci dicono che oggi è molto più dura condurre una politica disfattista, una politica di guerra alla guerra. È molto più dura, ma non impossibile, perché a differenza di un secolo fa, il proletariato oggi è una classe ormai internazionale, è una classe che non ha confini. Molto più di 100 anni fa, molto più di un secolo fa, anche se timidamente in molte parti del mondo, in maniera più prorompente in altre, molto più timidamente in altre parti del mondo, però stanno venendo fuori delle lotte che travalicano anche la classica lotta capitale lavoro salariato e investono i problemi dell'ambiente, i problemi di genere. Molto più di un secolo fa è diffuso in Occidente un sentimento di ripulsa nei confronti della guerra, anche se non dobbiamo pensare che sia permanente. Le classi dominanti, una volta che decidono di condurre a fondo le loro guerre, possono provocare 1000 episodi atti a rovesciare questo sentimento di ripulsa verso la guerra. Non gli manca la possibilità, le occasioni, gli strumenti. Però oggi esiste questa cosa ed è un punto su cui dobbiamo fare forza, fare leva, anche se, come accennavo prima, i movimenti rivoluzionari devono sempre distinguersi da quelli pacifisti, anche se possiamo trovarci poi nelle piazze insieme, ma dobbiamo distinguerci perché la politica pacifista è quella che vede la guerra come una deviazione da quella che è la vita normale e quindi ritiene che una volta fatta finire la guerra si ritorni nella normalità e tutto vada bene, mentre per noi rivoluzionari internazionalisti la guerra è la conseguenza inevitabile del capitalismo. Quindi noi non puntiamo a tornare a una normalità che non è mai esistita, o una normalità che di per sé produce continuamente le guerre, e quindi il nostro scopo è quello di ribaltare l'attuale sistema sociale. Detto questo, però, per i motivi che vi elencavo brevemente prima, poi magari nella discussione ne possiamo trovare altri, ritengo che la partita non sia persa. Ritengo che questa esperienza del disfattismo, che è una politica, non è un appello fine a se stesso, non è un rifiuto emotivo senza sbocco, è una linea politica di guerra alla guerra, di trasformazione della guerra imperialista in guerra civile. Ecco, questo disfattismo diventi patrimonio soprattutto delle giovani generazioni, che non molto tempo fa hanno anche dimostrato una notevole sensibilità riempiendo le piazze, appena poco più di un mese fa, di fronte al genocidio di Gaza. Ecco, questo importante, seppur non di per sé, no, dobbiamo pensare che sia l'inizio di chissà di quali rivolgimenti per ora, però questo pur importante segnale deve, secondo me, fare tesoro dell'esperienza disfattista per lievitare dentro i lavoratori, dentro i giovani, dentro gli studenti, e diventare il punto di riferimento per le battaglie del domani. Io la chiudo qua. Grazie per l'intervento. Direi che chi vuole intervenire e porre delle domande, sia qui in sala sia online, possiamo procedere. Beh, intanto volevo ringraziare Graziano per questo libro, che si pone in un piccolissimo solco di testi che affrontano questo argomento, quello della risposta da dare alle prospettive di guerra. E mi sembra importante che questa cosa inizi a diventare una discussione e un patrimonio comune, e che soprattutto diventi un momento di confronto tra le giovani generazioni, che in ogni occasione devono avere in mente questo come prospettiva. Quello che diceva Graziano è giusto, e vi sottolineo due questioni. La prima: come voi tutti sapete, la Prima Guerra Mondiale è iniziata nel luglio del 1914. L'Italia non entra in guerra però nel luglio 2000 del 1914, entra in guerra un anno dopo. Come mai? Perché? Forse che la borghesia italiana non era intenzionata a partecipare al mercato? Lo era moltissimo. Forse era un problema di alleanze? Certo, c'era anche un problema di alleanze. Ma non dimenticate che una settimana prima che scoppiasse, o un mese prima, scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, in Italia c'era stata la Settimana Rossa. Nel giugno del 1914 esplode un'insurrezione operaia, proletaria, che coinvolge non solo Ancona ma tutte le Marche, e che lascia un segno nella borghesia italiana. Perché? Perché vede anche la possibilità dell'ammutinamento dei soldati che erano stati mandati ad Ancona per imporre l'ordine in quella città e nelle Marche. Questa cosa, certo non l'unica, ma questa cosa è stata importante, perché ha segnato un momento in cui la borghesia italiana si è resa conto che non era così automatico poter entrare in guerra nello stesso momento in cui sono entrati gli altri, perché il rischio in quel momento di una insurrezione che potesse anche allargarsi, giusto quello che diceva e ricordava prima Graziano, ricordiamoci che l'Italia aveva avuto l'esperienza del 1911-12 della guerra in Turchia e che aveva rappresentato anche lì un momento in cui sia gli anarchici che la Federazione Socialista del Partito Socialista, che era già su posizioni intransigenti, aveva condannato fermamente e contro la quale c'erano stati movimenti di sabotaggio dei treni, di interruzione dei movimenti delle truppe. Quindi era una situazione che, particolarmente delicata, poteva avere degli sviluppi diversi. Qual è il problema? Almeno secondo me quello è stato uno degli elementi che ha impedito all'Italia di entrare in guerra immediatamente, e questo lo dico per questa ragione, perché prima poneva il problema giustamente Graziano: si può impedire oggi che questa corsa alla guerra che stiamo vedendo, che abbiamo tutti sotto gli occhi, si manifesti? Io penso che oggi ci siano migliori condizioni a livello planetario rispetto a quelle che c'erano nel 1914 di riuscire a fermare il processo per cui le borghesie portano al macello del proletariato, perché oggi abbiamo un pianeta che è proletarizzato. Non abbiamo più un pianeta dove la maggioranza delle persone sono contadini, che hanno chiaramente una visione delle cose che è differente. Devono difendere il loro suolo, perché è la loro vita. La difesa del suolo nazionale è la loro vita. Si può fare nei loro confronti un approccio, può avere la borghesia nei loro confronti un approccio ideologico, Dio, patria e famiglia, che oggi è molto più difficile. Perché? Perché abbiamo una maggioranza di proletari, slegati da quello che è la necessità della terra. Terra e sangue. Non c'è più questa cosa. Non ci sono più nemmeno, come ideologia, Dio, patria e famiglia. Devono essere sostituiti perché Dio è morto, ci sono 100.000 religioni. Nessuno può fare nemmeno più una guerra di religione. La patria è un concetto che è difficile che possa avere una vera e propria presa tra le giovani generazioni. Non ci sono più gli elementi per poterlo fare. La famiglia ormai lasciamo perdere, ci sono 1.000 famiglie, ognuno ha 3, 4, 5 famiglie, che di cosa difendi? Sono quindi criteri, concetti, modalità che sono superate ideologicamente. La borghesia ha bisogno di qualcosa di diverso per cementare qualche cosa che consenta di poter portare la gioventù a sventolare nuovamente le bandierine nazionali. E non sarà cosa facile per loro. Per noi le cose non è che siano facili, intendiamoci, anzi, sono molto difficili. Noi abbiamo a che fare con una borghesia che comunque ha saputo resistere e andare avanti dal punto di vista ideologico. Giusto quello che ricordava prima Graziano e anche Francesco, il processo di militarizzazione è entrato nelle scuole a tutti i livelli scolastici e tutte le nazioni europee lo stanno facendo. Faceva l'esempio della Germania. Io vi ricordo che in Polonia ormai nel primo anno delle scuole superiori è entrata in vigore l'obbligo di partecipare alle iniziative in cui le scolaresche vanno a sparare con i fucili veri, mentre nell'ultimo anno delle medie vanno con i finti. Ma ormai è una cosa che è diventata comune. I polacchi hanno, la borghesia polacca ha in mente le sue cose. Vabbè, non è questa la sede per discutere. Però questo avviene nelle scuole italiane, ormai questo avviene normalmente, non certo di portarli a sparare, ma portarli sulle navi, sì, portarli sugli aerei, sì, portarli a vedere come si spara, sì. È un processo che quindi mira a questo, ma è molto difficile, a mio parere, che questa cosa possa avere dei veri e propri risultati, occorre qualcosa di diverso. Quindi per noi diciamo che abbiamo un compito che secondo me è più facile di quello che hanno avuto nel 1914 il Partito Socialista, che poi non aveva l'idea di ovviamente trasformare la guerra in guerra civile. E quindi Quello che ci occorre è che riusciamo a trasmettere alla gioventù, alla leva giovanile, questi che sono dei principi cardine fondamentali per non farsi influenzare da nessuna logica borghese, patriottica o nazionalista. Loro ci proveranno, ma secondo me abbiamo più probabilità oggi di riuscire a rompere questo schema e a darci una prospettiva appunto planetaria. Grazie ancora a Graziano, perché questo libro insieme a pochi altri si pone in un'ottica che noi dobbiamo continuamente ribadire. C'è qualcun altro che vuole intervenire? In attesa magari che qualcun altro intervenga, colgo l'occasione che mi ha dato il compagno che è intervenuto prima di me, perché poi nell'esposizione mi è passato questo aspetto, cioè quello di fare anche un discorso sull'abitudine alla guerra. Nei primi 80 anni successivi all'Unità d'Italia c'è la guerra la terza guerra, cosiddetta terza guerra di indipendenza nel 66. Poi nel 94 c'è la guerra di Abissinia. Poi l'11-12 c'è quella di Libia, poi c'è la prima guerra mondiale, poi c'è la guerra di Abissinia del 35-36, poi c'è la guerra di Spagna e poi c'è la seconda guerra mondiale. In 80 anni 7 guerre guerreggiate, dove tornavano le bare dei soldati caduti. Solo nella seconda guerra mondiale, parzialmente anche nella prima, perché il Veneto ha coinvolto nel Veneto, stando all'Italia, per non dire poi altri paesi come il Belgio, comunque stando all'Italia, il Veneto è stato, la popolazione civile è stata coinvolta anche nella prima guerra mondiale. Nelle altre parti del paese no, nella seconda guerra mondiale, come sapete, tutta l'Italia, no? Tutta la popolazione civile. E dunque non solo tornavano le bare dei soldati, ma c'era il morto all'uscio di casa o sotto le macerie della casa. Nei successivi 80 anni, zero. Da questo punto di vista, spedizioni umanitarie molto virgolettate di qua e di là, qualche attentato eccetera, ma queste cose non sono state più vissute. Dunque questo da una parte, come diceva, ricordavo il compagno, ha creato anche, come dire, un retroterra di ripulsa verso la guerra, che ci viene bene, è buono, cioè viene di fronte al fatto compiuto, non è come una società civile dove ogni qualche anno c'è una guerra, non è quello, ci viene meno bene dal punto di vista magari di ribaltare il ribaltamento, insomma. No, voglio dire, non volevo certo spiegare io. Non può essere, come diceva Mao Zedong, un pranzo di gala. Ecco, quello ci viene meno bene. Per cui, questa osservazione volevo fare, colgo l'occasione per farla, il rapporto tra movimenti rivoluzionari, internazionalisti, disfattisti e movimenti pacifisti, che un secolo fa era sbilanciato a favore dei primi, si è capovolto. Per quel poco anche che dal punto di vista organizzato si muove pur in questa situazione, perché, no? Voglio dire, per suscitare questa insorgenza di 2 o 3 giorni su Gaza, no? Per 2 anni, quasi 2 anni, è stata appannaggio di poche minoranze, perché, voglio dire, qualche migliaio di persone nelle piazze, non dobbiamo certamente prenderci in giro, è stato delle minoranze, no? Poco oltre qualche iniziativa, magari contro la guerra, che ha mobilitato qualche decina di migliaia, parlo di quella del 22 febbraio del 2024, tanto per dire, proprio qui a Milano. Però, no, c'è voluto 2 anni di massacro sistematico per produrre. Quindi questo è da una parte un vantaggio, però anche da parte un problema di cui dobbiamo tenere conto senza paura, perché penso che comunque il futuro sia dalla parte della lotta dell'emancipazione degli sfruttati, per il semplice motivo che ormai, come ricordava il compagno, la maggioranza della popolazione attiva mondiale è proletaria, cosa che allora, non un secolo fa, non era così. E quindi, voglio dire, molti eserciti, a partire da quello italiano, non solo, ma a partire da quello italiano, facevano spesso leva anche sulla condizione contadina, per poter poi mandare al macello i poveri fanti con le famose spallate sull'Isonzo, che sono state un massacro a cielo aperto. Un massacro a cielo aperto, confidando sul fatto appunto di avere arruolato dei lavoratori, sì, ma dei lavoratori che, a parte alcuni settori, erano sicuramente, come dire, gettati nella fornace senza poter avere gli strumenti di rendersi conto di quello che stava accadendo. Ecco, mi fermo qua. C'è qualcun altro? Ma io volevo dire, cioè, rispetto alla Prima Guerra Mondiale, come dicevi anche tu giustamente, cioè, l'esercito si è trasformato in un esercito professionale, quindi, come dicevi, è molto difficile, perlomeno abbastanza difficile, avere un rapporto perlomeno di ribellione in questo caso qua. Il passaggio che tu dicevi dalla, come in Germania, dalla leva obbligatoria, certo questo è un po' difficile, cioè, non so adesso come i giovani possano prendere questa situazione, visto che io me lo ricordo la leva obbligatoria, cioè, quando c'erano diciamo i comandi, le privazioni, eccetera, eccetera. Oggi mi sembra un po' difficile che il giovane possa accettare questa situazione. Comunque, questa è una prima domanda. Una seconda domanda è quella che riguarda le fabbriche di armi. Cioè, in effetti la capacità di, se possibile, interrompere queste produzioni di armi, certo non è molto facile, però abbiamo avuto alcuni esempi in queste diciamo anche ultime settimane o mesi, per esempio alla CAB di Cattaneo, a Milano, a Lecco, al Cameri, a Novara, insomma in quella zona lì, in cui comunque c'è stata una contestazione contro queste fabbriche di armi, perché l'unica, penso che sia l'unica soluzione di poter dare, interrompere queste produzioni di armi. Questo. Sì, direi sicuramente una situazione di reintroduzione della leva di massa difficile, no? Che poi un giovane, perché ormai credo, cosa sono, 20, più di 20 anni che è stata abolita. Sospesa, sì. Più di 20 anni, per cui è passata più di una generazione, e poi col clima a cui mi riferivo, difficile che possa accettare una reintroduzione. Infatti, non ve l'ho detto perché non la volevo fare troppo lunga, sempre l'articolo che citavo, parto sul Fatto. Allora, procede la riforma del servizio militare prevista dal 1 gennaio 26. Il sistema a sorteggio, c'è un sistema a sorteggio, la lotteria, il sistema a sorteggio dovrebbe sparire, almeno in parte, quindi dal 27, l'anno dopo la leva, sarà obbligatoria per tutti gli uomini di uno specifico anno di nascita. Tireranno a sorte anche l'anno di nascita, non lo so. Non parla. Pistorius, il ministro della difesa, vuole che i coscritti siano considerati soldati temporanei fin dal primo giorno, temporanei. La Bundeswehr, l'esercito tedesco, deve crescere, dice. La situazione internazionale, in particolare l'atteggiamento aggressivo della Russia, lo richiede. Tra l'altro, una nota che vorrei aggiungere è che al Bundestag, al Parlamento tedesco, il capogruppo della SPD, la socialdemocrazia, sostiene un approccio graduale. Non ci sarà un automatismo per la chiamata. Vogliamo che i giovani vedano che questo servizio è attraente. Attraente, dunque, non so cosa inventeranno. Metteranno le ballerine lì in prima, non lo so. Cosa gli metteranno per renderlo attraente? Vabbè, vedremo. Comunque, per dire, ovviamente, questo discorso poi della reintroduzione, hai ragione, non è pronti via, da domani si ritorna tutti in caserma, se vedranno di modularlo, di diversificarlo, di edulcorarlo, di foraggiarlo, che ti devo dire? Penso che poi arrivino a pensare cose di questo genere, perché non è, come dicevi tu, ovviamente scontato che possa passare. Sulla fabbrica di armi, certamente, ne parlavamo anche la settimana scorsa, ero a Monza, sempre per questo libro, e lì in collegamento anche con altri compagni, che tu hai citato Lecco, ma no? Che stanno facendo delle iniziative davanti a queste fabbriche. È un terreno di lotta. È un terreno di lotta, perché no? Anzi, direi che è uno dei terreni più importanti di lotta. Ovviamente, anche qui si diceva la settimana scorsa a Monza, il problema è poi anche vedere di coinvolgere i lavoratori che sono dentro queste fabbriche, perché è importante andare fuori con i cartelli, gli striscioni, eccetera, con i presidi, però sarebbe importante poi, non di meno ovviamente, coinvolgere quelli che le fanno queste armi. Anche qui è una battaglia di primo ordine, ma che rimane in sospesa, perché il collegamento è evidente: più è una guerra di macchine, anche sofisticate, e più è importante la produzione di queste macchine, non è che si fanno da sole. Quindi è ancora di più importante. Facevamo anche un discorso non meno interessante, se volete, che potremmo anche approfondirlo, no? Della come dire, produttività necessaria per costruire queste macchine di morte e la distruttività di queste sul genere umano, in proporzione, per dire, 100 anni fa, dove già era molto elevata, ma ora siamo a dei livelli, direi 10 volte, dico poco, superiori. È comunque un terreno, quello dell'antimilitarismo, collegato al disfattismo in maniera evidente, che porta con sé gli scioperi, i boicottaggi, i presidi, gli ostruzionismi, tutte quei momenti di lotta diretta che devono impegnare gli internazionalisti, se sono tali. Blocco dei porti, è stato anche quello, è stato provato a Genova, è stato fatto a Salerno, dove è stato possibile. Quindi, per dire, tutte delle forme di lotta che porta questo disfattismo. Altro aspetto che viene citato nel libro: per il rivoluzionario il disfattismo non è una linea in tempo di guerra, ma il disfattismo è una linea in tempo di guerra e in tempo di pace, sempre, perché è un atteggiamento politico verso il proprio governo. Qualcun altro vuole intervenire? Allora, io approfitto della posizione e rilancio una cosa, perché mi interessava questa discussione. Io sono un po' più meno fiducioso sul fatto del servizio militare. Io penso che il servizio militare obbligatorio ci si arrivi, che si sia ormai aperta una strada da parte della borghesia di riarmo, e che sicuramente non è facile e non ci porti la gente così tranquillamente, eccetera, ma le cose cambiano. E gli stati maggiori, questa cosa, che sono un po' più tecnici e forse lungimiranti dal loro punto di vista rispetto ai cosiddetti politici che compaiono, ci stanno pensando da tempo. Esiste un documento che ha qualche anno, dello Stato Maggiore italiano, che si chiama La guerra cognitiva, e in cui si teorizza che sia fondamentale conquistare la mente della gente. Detto da uno Stato Maggiore, stiamo parlando quasi di cose, non dico di fantascienza, ma di umanesimo e così. In realtà si sono posti il problema e stanno operando, sottolineo operando, per portare avanti propaganda sistematicamente nelle scuole, fin dalle elementari, sul discorso della patria, sul servizio militare, sul ruolo positivo dei soldati e così via. Certo, non è così semplice, ma hanno, diciamo, tutta un'istituzione che li porta a far questo. Per dire, qualche giorno fa, una struttura che è pacifista, come l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, aveva fatto una specie di convegno online che contava 1000 iscritti, insegnanti, che tra l'altro lo potevano usare come curriculum nella formazione, per fare un convegno sulla guerra contro il riarmo come materia di studio. È ovviamente intervenuto Valditara, che ha bloccato e negato questa cosa. Piccola faccenda, però dà l'idea del segno che c'è e di quello che si sta muovendo. Ma si stanno attrezzando la borghesia in varie forme, in vari modi. Noi abbiamo visto in TV qualche tempo fa una rappresentante della Commissione europea che parlava della valigetta per resistere 3 giorni, e l'ha fatto con una capacità di comunicazione e intelligenza cognitiva veramente a basso livello. Ma in realtà lo stanno facendo. La Svezia è all'avanguardia, abbiamo sempre detto, ha creato un documento che, se volete, si trova anche in italiano tramite anche il nostro blog, in cui con questo documento è spiegato alla gente cosa fare in caso di attacco, in caso di aggressione, come comportarsi in caso di guerra, e si è sempre aggrediti. C'è un cattivo che ti aggredisce, tu sei quello che viene aggredito, non aggredirai mai, questo lasciamo perdere, poi che si inventano le scuse di guerra. E questo atteggiamento, questo addestramento, questa assuefazione all'esigenza della guerra sta andando avanti. Ormai si parla apertamente di il riarmo, va a sprombattuto, e direi che dovremmo anche ragionare sul fatto che siamo di fronte a governi che nei vari paesi sono sempre più eletti di una minoranza di aventi diritto di elettori, e si fondano su un monopolio della violenza, delle strutture della forza armata, della struttura della rappresentanza, della legislazione, che sono enormi, sempre più distaccati e necessariamente sempre più violenti e sempre più repressivi. Noi qui abbiamo ormai delle leggi che riguardano la possibilità di repressione enormemente avanzate. Quello che è stato il DDL Piantedosi e così via consente cose che alla polizia prima non erano permesse da decenni non si poteva fare una cosa del genere. La preparazione, la costruzione della mentalità di guerra, dell'atmosfera di guerra, cioè quando in TV ti va un Zelensky che ti dice che tra 5 anni abbiamo i russi che ci stanno attaccando, si capisce su che terreno si sta muovendo la comunità europea. Noi abbiamo qui anche i politici che fanno finta di essere contro, abbiamo Salvini che dice non un uomo per la guerra in Ucraina, ma se andiamo a vedere la Lega ha firmato tutti quanti i prestiti di guerra cosiddetti, cioè loro stanno preparando la guerra e la stanno giocando fino in fondo. Secondo me andranno avanti su questo terreno, e se hanno delle contraddizioni, e spero che siano ancora più grosse per fare il servizio di leva adesso, ma il giorno che parte una guerra, se a livello globale, a livello mondiale, l'esercito professionale non basta più, ci sarà quello che dirige e che governa, ma a morire vengono nuovamente mandate le nuove generazioni, eccetera. E quindi direi che vada messo dentro nel ragionamento. C'era? Non gli dai la linea. Devo smettere il microfono. Chi vuole parlare deve online deve riattivare il microfono. Dovresti avere l'icona del microfono, ci levi il segno sopra che lo cancella. Cliccaci sopra. Alessandro, prova a parlare adesso. No. Non riesco a parlare. Prova adesso a levare il microfono, il segno di spunta sul microfono. No, io da qui non ci riesco a levartelo, purtroppo. Prova adesso che... No, purtroppo non è riuscito. No, se nel frattempo qualcun altro vuole intervenire, che... Penso che appunto gli interventi che ci sono stati, oltre alla relazione, abbiano affrontato da un punto di vista pienamente condivisibile queste problematiche. E, ecco, due aspetti, cioè uno, quello della leva a cui torneremo, perché penso che con... il passaggio delle spese militari più che raddoppio delle spese militari nei prossimi anni che sono previste dalla Unione Europea e col governo italiano che trascina un po' i piedi ma poi si allineeranno, ci arriveremo penso che la cosa abbia anche un aspetto dialettico, cioè nel senso che noi chiaramente non faremo propaganda per la sua introduzione, ma alla fine la sua introduzione favorirà la penetrazione di posizioni disfattiste all'interno delle forze armate che con un esercito professionale è molto meno facile, perché è gente che di sua volontà ha deciso di fare quel mestiere lì. Poi magari quando si trovasse in guerra come i volontari di cui parlava Graziano, che poi vedono la guerra vera, magari una parte di questi cambia idea e ci ripensa. Quindi vediamo appunto dialetticamente anche questo aspetto. Rispetto al fatto se oggi il clima sia più favorevole o meno ha una posizione di tipo disfattista o comunque contro la guerra, ecco, direi che mentre per la Palestina abbiamo visto muoversi a livello internazionale anche milioni di persone, anche se anche lì facciamo attenzione perché l'esplosione della partecipazione in Italia nella prima settimana di ottobre non ha avuto una caratteristica, diciamo, internazionalista chiara, perché si sono mossi non perché stavano bombardando Gaza da 2 anni, si sono mossi perché c'era la flottiglia che era un po' nostra, no? Nostra nei termini italiani, che andava là e anche alcuni aspetti un po' legalitari, cioè erano in acque internazionali, quindi violazione. Quindi e c'è stata chiaramente anche la partecipazione di CGIL e di Partito Democratico, 5 Stelle, quindi per fini elettoralistici, ma che non erano chiaramente su posizioni per una resistenza palestinese e di tipo internazionalista, quindi cioè, ben venga, purtroppo è stato un momento appunto che è durato una settimana, anche se effettivamente a Milano erano decenni che non si vedevano manifestazioni di queste proporzioni, e comunque è indicativo di qualcosa che potrà ripresentarsi e su cui occorrerebbe avere maggiore capacità di intervento. Ecco, il clima in Italia, ma non solo in Italia, anche in Germania ad esempio, non è guerrafondaio, perché ci sono forze che stanno schierandosi in maniera, anche borghesi che stanno schierandosi in maniera contrastata, pensiamo appunto, citate la Lega, Conte che fa il pacifista, perché hanno altre direttrici, altri orientamenti, Conte guarda anche alla Cina, l'AFD pur appoggiata dagli americani perché è anti-europea, però vede bene la Russia, quindi si oppone a una linea che è antirussa, anche se poi quando sarà il momento del riarmo massiccio non si tirerà indietro, anche se poi ad esempio i sindacati tedeschi hanno ufficialmente appoggiato una linea di riarmo in funzione nazionalista di autonomia militare rispetto agli Stati Uniti, proprio l'hanno detto in maniera chiara la Confederazione tedesca. Quindi le contraddizioni attuali in campo interimperialista e una certa incertezza anche dell'Europa di fronte a un Trump che sta cercando di bilanciare, così in Medio Oriente come anche in Europa, sta cercando di bilanciare tra europei e Russia, e quindi sta provocando delle reazioni anche in Europa rispetto a questi schieramenti, con il sorgere di schieramenti anti-americani o comunque che dicono non possiamo più contare sull'ombrello americano, dobbiamo armarci noi per sostenere i nostri interessi in maniera autonoma, e quindi crepe nella NATO. Sono tutti processi che sono in corso, di cui è impossibile, penso, prevedere quali saranno gli sbocchi, che portano a una non compattezza della stessa borghesia nel senso, nella direzione del riarmo, anche se poi paesi come la Polonia o i Baltici, o che sono in maniera proprio guerrafondaia apertamente, ma la stessa Gran Bretagna. Ecco, quindi ci sono queste contraddizioni su cui possiamo far leva per avere un maggiore ascolto delle posizioni contro la guerra, perché non c'è uno schieramento compatto su questi aspetti, ecco. Teniamone conto, però si tratta anche di smontare il fatto che Conte sia contro la guerra, che Salvini sia contro la guerra, in termini complessivi, e quindi portare invece chi parte da sentimenti pacifisti su posizioni anticapitaliste, antiimperialiste e rivoluzionarie. È un lavoro da portare avanti, e diciamo, le contraddizioni che esistono di questo genere favoriscono anche questo lavoro. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vuoi dire tu qualcosa di chiusura? Cioè, sì, scusa un attimo, Alessandro dice: credo che ci sia da chiarire un punto molto concreto, l'atteggiamento internazionalista rispetto alla reintroduzione della leva. Anarchici e comunisti hanno sempre avuto posizioni diverse. No, volevo sottolineare un altro aspetto, cioè come avevi detto tu in precedenza, la produzione di armi dovrebbe risolvere la crisi, cioè perlomeno soppiantare le produzioni e quindi avere un effetto benefico sulla crisi stessa. Ora è un po' difficile che si possa richiamare in patria queste produzioni che sono ormai delocalizzate, cioè è stato un ventennio o più di delocalizzazione che non esiste più un'economia nazionale, no? Che può avere pensare di fare tutto da sé, diciamo, anche in Europa, tutto sommato. Per esempio i chips, i famosi chips che sono ormai necessari per tutte le varie infrastrutture, eccetera, comunicazioni, eccetera, sono prodotti da Taiwan nel 60% dei casi. Mi sembra che sia stato Biden stesso, quando era presidente, che ha fatto un atto per richiamare in patria queste produzioni, ma lo stesso Biden, stesso Trump l'aveva fatto, mi pare che non ci sia riuscito, perché le multinazionali vanno dove è più, il costo del lavoro è più basso e dove ci sono migliori facilitazioni, minore tasse, eccetera, eccetera. Allora, se nessun altro vuole intervenire, a parte affrontare la questione sollevata da Alessandro, è uno dei punti nodali della politica, però non è adesso, diciamo, il tempo e il momento di riuscire a risolverlo. Un contraddittorio con gli anarchici su questa cosa sarebbe molto interessante, parzialmente l'abbiamo anche già fatto a suo tempo. Rimane aperto proprio sul problema ucraino, direi che è essenziale per affrontarlo. La guerra in Ucraina sta continuando, c'è un livello di diserzione altissimo, questi disertori secondo me vanno aiutati nei limiti del possibile, va fatta la rete di supporto a questi, siamo oltre 160.000, lo dicevo prima. La diserzione in questi termini è ovviamente possibile perché ci sono dei confini tra cui si può passare. In caso di una guerra generale tu non vai in un altro paese tranquillamente, l'esperienza precedente è che dei confini della Svizzera ti bloccavano e ti rimandavano indietro se scappavi dalla guerra. E poi è stato anche reso possibile sia per l'immigrazione, perché l'Ucraina ha una legge effettivamente strana sulla leva, strana nel senso che quando è cominciata la guerra si andava sotto le armi dai 27 ai 60 anni e chi era dai 18 ai 26 no, poi hanno abbassato a 25 il limite, quindi tutti i giovani non vanno in guerra e se possono se ne vanno. Esempi di diserzione, di rivolta contro gli ufficiali ucraini ce ne sono, la dimensione è enorme perché hanno un'altra legge strana che è quella che se tu hai disertato una volta puoi essere perdonato se ti presenti al tuo battaglione e il comandante del battaglione è d'accordo, che qui siamo al delirio totale, però dà l'idea della cosa. Un po' l'intervento che mi ha preceduto diceva non siamo certo che possiamo essere d'accordo per il servizio militare e se lo vogliono ripristinare, però effettivamente pone una questione: non ci basta disertare, dobbiamo avere il controllo delle armi, come si dice, il monopolio delle armi, che alla borghesia è diventato spaventoso nei tempi trascorsi precedenti. Anche che si ricorda l'esperienza dal 68 in poi, c'è stato un movimento dei soldati in cui uno degli elementi era controllare anche le caserme. L'ultima rivoluzione che c'è stata in Europa, quella portoghese, è stata possibile perché i militari avevano le armi e hanno fatto la rivoluzione. I proletari dentro l'esercito, quella dei garofani, erano armati loro. Quindi il problema rimane aperto, anche se penso che andando verso una guerra aperta saranno obbligati all'aumento della leva e probabilmente la pari opportunità farà entrare anche le donne oggi, come sta andando, non solo professionalmente. L'esercito professionale non può fare quella guerra. Chiudo qui ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, ringraziando Graziano per la presentazione e invito nuovamente alla lettura del libro. Come centro di documentazione noi continuiamo ad andare avanti con cercare di fornire materiale. Abbiamo dei lavori in cantiere di cui non abbiamo la data precisa, stiamo definendo, vorremmo riuscire a fare un qualcosa che presentasse che cos'è, come si muove, cosa fa la Leonardo nel panorama della riconversione bellica e dell'aumento delle spese militari. Stiamo lavorando sulla guerra in Sudan, che è una guerra dimenticata un po' meno in questi giorni, ma una guerra spaventosa in cui anche lì si pone apertamente un problema di disfattismo contro i due contendenti, perché è stata una guerra per bloccare anche un movimento sociale che c'era lì tra due bande al potere, e sugli Stati Uniti, perché il disordine che vige negli Stati Uniti è fondamentale per lo sviluppo della crisi e la sua evoluzione. Saluto tutti e ringrazio ancora. Buonanotte.